Venezia con la faccia imbronciata, con trucco agli occhi fatto a matita, con l'aria trasparente e pulita, somiglia a te. Venezia solitaria d'inverno, ma triste solamente all'esterno, segnata come un vecchio quaderno, somiglia a te. Lei ci si nasce, si muore, ma il tempo di annoiarsi non c'è. Venezia che sa fare l'amore come te. Venezia con la luna nel mare, i prati colorati di blu. Venezia come me la puoi amare un po' di più. Venezia con le labbra salate che posa per la fotografia. Venezia con le ciglia bagnate.